21. Ciò che subito nello scorpione mi sedusse e mi rapì furono due parole: penso io. Egli le diceva tutto spiano, 10, 20 volte al giorno: penso io, penso io. Talvolta variava, diceva: non vi preoccupate, oppure lasciate fare a me. Ma più spesso erano le due parole incantevoli: penso io. Non so descrivere il senso di calma e di benessere che quella breve asserzione mi ispirava. Mi sentivo alleggerita, esonerata, libera d'ogni inquietudine, d'ogni ansia, quasi di ogni ricordo. Prilukov, lo scorpione, diceva penso io ed io non pensavo più. Già, non avevo mai pensato. Nessuna responsabilità mai aveva gravato sulle mie esili spalle. Vi era sempre stata tanta gente intorno a me a consigliarmi, a dirigermi, a pensare e ad agire per me. Quando mi ero trovata tutta a un tratto sola per il mondo con Tioca ed Elisa, mi ero sentita più spaurita, più inefficace di loro. Ma ora ecco qualcuno nuovamente pronto a pensare e ad agire e a dirigere e a decidere. Se io sospiravo, ma come faremo per avere denari? Prilukov rispondeva, i denari penso io. E come farò perché non mi rapiscano Tioca? A Tioca penso io. E poi voglio divorziare da Vasili. Divorzierete, a questo penso io. Ma che cosa dirà mia madre? A vostra madre penso io. Non eravi cosa al mondo a cui non giungessero onniscienti e sufficienti pensieri di Donato Prilukov. Io gliene ero grata fino alle lacrime. Ah, come potrò mai ringraziarvi? Pensero io, diceva Prilukov, a farmi ringraziare. Ma da principio non parve pensarci. Si incaricò dei miei interessi, del mio divorzio, dei miei genitori, di mio figlio, della mia cameriera, dei miei debiti, della mia salute, ma non mi chiese gratitudine. Io non avevo che a obbedire e tacere. Fu un periodo quasi di tregua. Ben presto egli non fu più per me lo scorpione, né la piovra di Wells. Egli era nella mia mente un misto di cavalier servente, di liberatore, di commissionario ed eroe. Ogni favore, ogni consiglio che gli chiedevo era un nuovo vincolo sottile che mi legava a lui. Mi pareva di non poter far nulla senza domandargli parere e aiuto. Tioca, Elisa ed io ci abituammo a vederlo arrivare ogni pomeriggio, poi anche ogni mattina, poi anche ogni sera. Non si usciva senza di lui, non si scriveva una lettera senza dargliela da leggere. Se Tioca rompeva un giocattolo, se la Perrier si faceva imbrogliare in un conto, se io ricevevo uno scritto anonimo, tutto veniva riferito a Prilukov. Egli intascava tutto, dicendo «penso io». E non era vana parola. Aggiustava i giocattoli, accomodava i conti, scopriva e puniva gli anonimi detrattori. Egli era astuto, deliberato e intelligente. Io lo credevo anche buono, forte, pietoso. Chi può dire che a quell'epoca non lo fosse? Lo spaventoso Prilukov, assassino e ricattatore, che ho visto rivolto contro a me livido d'ira nell'aula di Venezia, è proprio lo stesso Prilukov che in quei giorni lontani aggiustava i burattini del piccolo Tioca. Quello che se mi vedeva un po' pallida si rattristava, quello in cui Elisa, congiungendo le oneste, travagliate mani, diceva: Candilantre, il me semble che sia Lohengrin. Quando entra mi sembra che sia Lohengrin. Lohengrin. Non so crederlo, non so capirlo. Quali di quei due esseri, il malefico demone o il generoso cavaliere, sarà stato il vero Prilukov? Forse quando saranno tramontati questi foschi anni di dolore e di prigionia, che tante cose cancellano e tante rischiarano, se io lo incontro mai lo ritroverò nel suo triste volto appassito, il forte, il pietoso Lohengrin di quei giorni lontani. Frattanto io mi lasciavo vivere mansueta e soggiogata. Due sole cose mi turbavano. Una era la paura che Tioca mi venisse rapito, l'altra era un segreto tormentoso che non confidavo a nessuno, era lo spavento delle porte chiuse. Ogni volta che io mi trovavo sola, davanti a una porta chiusa, non osavo aprirla. Avevo l'idea fissa, terribile, spaventosa, che dietro a quella porta avrei veduto Bozevski. Ero convinta che gli stava immobile, aspettante, in ogni corridoio, in ogni stanza vuota di cui la porta chiusa era davanti a me. Tutti gli usci dell'appartamento dovevano restare aperti. Se mai capitava che io restassi sola in una camera chiusa, suonavo il campanello, chiamavo, gridavo e se per caso tutti erano fuori, se nessuno mi udiva, restavo lì, inchiodata al suolo, coperta di sudor freddo davanti al terrificante mistero del battente chiuso. Talvolta, facendo sforzo su me stessa, trattenendo il respiro, osavo allungare le mani e adagio adagio giravo la maniglia, ma subito, scossa da un tremito convulso, richiudevo, spingevo con tutta forza per tenere chiuso, ma appoggiavo battendo i denti contro quella terribile barriera che celava. Oh, io lo sapevo, Bozevski, ritto e spaventoso, con la garza gialla intorno al collo. Questa idea terribile di giorno, di sera diveniva un incubo spaventoso, soffocante. Tioca andava di sopra al letto accompagnato da Elisa verso le 8 di sera. Talvolta accadde che, quando essi già dormivano, il vento sbatacchiava la porta spalancata del salotto dove io sedevo. Allora, tremante, con la gola arida, irte le radici dei capelli, io restavo immobile, irrigidita. E per tutta la notte non mi muovevo, sapendo che Bozevski era lì, diviso da me soltanto da quel lieve tramezzo. Al mattino, Elisa mi trovava sul tappeto, svenuta. Un giorno Elisa fu chiamata a Neuchâtel. Suo padre, vecchio e vedovo, era moribondo e voleva riabbracciare per l'ultima volta la sua buona figliola lontana. Erano le 5 del pomeriggio quando giunse il dispaccio. Alle 8 di sera Elisa, sconvolta e piangente, era già in treno. Tioca ed io, che l'avevamo accompagnata alla stazione, ce ne tornammo, tristi e soletti, alla nostra casa solitaria, nella Sofienskaya. Doppiamente solitaria quel giorno che Donato Prilukov aveva dovuto assentarsi da Mosca per un processo a Kiev e non tornava che l'indomani. Avevamo una vecchia cuoca, ma quella partiva ogni sera per andare a dormire a casa sua. Entrammo nervosamente nell'appartamento. Io accesi in fretta tutti i lumi e poi portai Tioca, già assonnato e di cattivo umore, su per la scaletta interna che conduceva alle nostre stanze da letto. Lo svestii e lo misi nel suo lettino. «Credi che i lupi verranno a mangiarmi se stasera non dico le preghiere?» piagnucolò, stropicciandosi gli occhi. «No, no, tesoro, le dirò io per te.» Lo baciai. Abbassai il lume e scesi a cercare un libro nella biblioteca. Mi sentivo nervosa, inquieta, temevo di non poter dormire. Come avvenne? Fu un istante di dimenticanza che mi fece trarre dietro a me la porta della tetra biblioteca. La pesante tenda rossa girò sulla sua stanga e ricadde davanti all'uscio. Io ero imprigionata. 22. Non avrei mai più osato uscire da quella stanza. Subito pensai che Tioca poteva chiamarmi, ma tra me e lui, sulla soglia di quella porta drappeggiata, stava colui che era morto lassù a Yalta, in quella stanza con due esseri dementi che lo guardavano agonizzare. Oh, orribile ricordo! Per molto tempo non osai fare un passo. Giravo la testa e guardavo dietro a me, poi fissavo di nuovo gli occhi su quella tenda rossa e a un tratto credetti udire uno strillo. Era Tioca che chiamava, che era tutto solo lassù e aveva paura anche lui, aveva paura come me. Con un brivido che mi cingeva la faccia come d'una cuffia di freddo, ascoltai quegli strilli sempre più acuti, sempre più disperati, e per rispondergli strillai anch'io. Oh, quegli strilli nella casa deserta, quegli strilli che solo il silenzio morto dietro la porta udiva. D'un tratto trasalii di un nuovo brivido. Il campanello elettrico aveva vibrato. Qualcuno suonava alla nostra porta. Qualcuno veniva a salvarci. Tioca strillava ancora e il campanello seguitava a trillare. Sentivo anche dei colpi battuti alla porta e poi una voce, la voce di Prilukov, che urlava: «Sono io! Aprite, aprite!» Con un urlo di terrore e di gioia respinsi la tenda e, stringendo i denti, spalancai l'uscio. Incespicando e vacillando, mi precipitai per il corridoio, cacciai indietro il catenaccio. Prilukov era sulla soglia, livido di spavento. «Cos'è?» esclamò. «Cos'è stato?» Ma io, singhiozzando e ridendo, «Tioca! Tioca!» gridavo. «Non piangere più, siamo qui! Siamo con te, non piangere!» E subito Tioca smise di strillare. Ma Prilukov mi teneva stretto. «Cos'è successo?» disse e digrignava i denti per l'emozione. «Ho avuto paura», singhiozzai. «Di chi? Di chi?» «Dei morti», dissi con uno scoppio irrefrenabile di pianto. «Penso io ai morti», disse Prilukov. Entrò e chiuse la porta. Così, senza saperlo, senza volerlo, scesi di un altro gradino verso l'infamia. Con rilutta trepidanza, in punta di piedi, rialzando come una principessa sdegnosa, con delicate dita lo strascico delle candide vesti, camminavo nel fango, che presto mi salirebbe fino al cuore, fino alla bianca gola adorna di perle, fino alla fronte coronata invano dalla avida nobiltà e dall'oro profondo e profumato delle mie chiome, in quel fango che un giorno tutta mi doveva inghiottire. Ricordo che in quei giorni venne a Mosca Cheiro, l'astrologo, il mago che predice l'avventura. Una mattina, non avendo nulla da fare, mi recai accompagnata dalla fida e incredula Elisa nelle sontuose stanze del celebre indovino. Egli mi prese ambe le mani e fissò lungamente il globo di cristallo che teneva davanti a sé, poi disse: Donna, tutta la tua vita è una tragedia. Io sorrisi, scettica ma turbata. Dite piuttosto una commedia, ve ne prego. Egli scosse il capo. Tragedia, ripeté. Poi mi narrò varie cose che potevano adattarsi a me come a qualsiasi altra, e finalmente, aggrottando le ciglia e fissando sempre più da vicino il cristallo, due uomini entreranno ancora nella tua vita, disse. L'uno sarà la salvezza, l'altro sarà la perdizione. Scegliendo l'uno andrai alla felicità, scegliendo l'altro andrai alla rovina. Qui, fece una lunga pausa, tu sceglierai l'altro. E mi abbandonò le mani. Io mi alzai sorridendo, ma no, ora che sono avvisata. Sceglierai l'altro, ripeté sentenziosamente, è il tuo destino. Pur non essendo molto superstiziosa, quel breve, oscuro vaticinio mi impressionò. Starò attenta, mi dissi a chi incontro, ed ogni qualvolta un uomo casualmente mi parlava, dicevo a me stessa, sarà forse questo l'uno o l'altro? Ma passarono i giorni e i mesi ed io non feci conoscenze nuove. Prilukov mi teneva gelosamente rinchiusa e il piccolo Tioca assorbiva quasi tutte le mie ore. All'infuori di loro due io non vedevo alcuno. Soltanto per caso un giorno trovai un'antica conoscenza. Avevo condotto Tioca nel parco delle fontane allorché vedemmo, seduti su di una panca nell'ombra, un signore e un bambino. Erano entrambi vestiti a lutto e parevano tristi e sconsolati. Il bambino poggiava il capo biondo al braccio di suo padre, mentre questi, con aria malinconica e distratta, tracciava col bastone delle iniziali nella ghiaia. Udendoci avvicinare, alzò il capo e ci guardò. Lo riconobbi subito, era il conte Paolo Kamarowski, marito di una delle più care mie amiche, che viveva a Dresda e non vedevo più da quasi 2 anni. Anch'egli mi riconobbe. E balzò in piedi facendosi rosso in viso. Il bambinetto vestito di nero ci guardava paurosamente, attaccato alla giacca di suo padre. Contessa Tarnowskaja! Esclamò e mi tese le mani. Io posi la mano mia tra quelle due mani inguantate di nero e un leggero brivido mi percorse tutta. Poi mi chinai sul piccino che sempre timoroso e pallido mi guardava. E questo è Grania? Sì. È Grania, disse il conte Kamarowski, poi, vedendo che il mio sguardo interrogava il suo lutto, la povera Emilia cominciò e un singhiozzo gli troncò la parola. La povera Emilia, la mia amica bionda, gaia, garrula, la ridente Lili, tutta letizia e leggerezza, era dunque diventata la povera Emilia. Era una grave, lugubre cosa morta la piccola Lili. Non potevo crederlo. La vedevo ancora china coi riccioli biondi sopra il suo violoncello che suonava una tarantella del Popper e rideva, rideva coi maliziosi occhi scintillanti dietro le chiome flave come stelle nere dietro un velo d'oro. Ed ora, davanti a me, stavano nei loro abiti di lutto suo marito e suo figlio. Sentii per loro grande tenerezza e pietà. Tioca si era avvicinato a Grania e i due fanciulli si guardavano con quell'espressione seria e semplice, così lontana dalla falsità del sorriso convenzionale degli adulti che si vedono per la prima volta. Il loro sguardo era grave, profondo, interrogante. «Ti piacciono i pellicani?» chiese Tioca improvvisamente. «No», disse Grania. «Neanche a me», disse Tioca. E vi fu un lungo silenzio. Ti piacciono le anitre? Domandò Tioca. Sì, disse Grania. Anche a me, disse Tioca. E l'amicizia fu fatta. Il conte Kamarowski ed io non trovammo così presto le simpatie comuni che subito legarono del loro semplice vincolo i nostri due fanciulli. Io conoscevo poco quest'uomo grave e taciturno, sprofondato nel suo lutto. Egli domandò il permesso di venirmi a trovare, ma prima che io gli rispondessi, un telegramma di mio padre mi richiamava a Otrada. Mia madre era sofferente e desiderava rivedermi. 23. Fu un'affannosa partenza e un angoscioso viaggio. Arrivammo a tarda sera alla grave e silenziosa casa paterna. Mio padre, alto e solenne, con la bianca chioma al vento, m'aspettava sulla porta, m'abbracciò senza parlare e benedisse Tioca. Mia madre? Quasi non osavo chiedere. Sta meglio, da che sa che venite ha migliorato assai. Tioca aveva già baciato con soggezione e fretta la mano al lavo ed ora correva su per il largo scalone verso la camera della nonna, a lui cara sopra ogni cosa. Ben presto si udirono le sue trillanti risate e il suo sgambettolio per tutta la casa, e mia madre diceva essere quasi guarita per la felicità. L'indomani, appena fu giorno, Tioca venne a svegliarmi perché scendessi con lui in giardino. Il gran giardino di Otrada, il giardino della mia infanzia, brillava nella sua veste estiva e Tioca correva davanti a me meravigliandosi con alte grida di tutto. Ma guarda l'acqua! Oh, ma guarda il piccolo ponte! E tu hai giocato qui quando eri piccola! Ma sei stata piccola tu? E mi guardava dubitoso e attonito. Sei stata proprio piccola del tutto? Sì, gli dissi ridendo commossa. Oh, strillò il piccino, c'è un'altalena! Un'altalena, urrà! Zitto, zitto, tesoro, non disturbare la nonna che è malata. La nonna non mi sente, dorme. E poi da che siamo arrivati non è più malata, altrimenti il nonno oggi non sarebbe andato a Kiev. Tioca saltò giù dall'altalena e soggiunse con gravità adorabile. Essere malati di nervi vuol dire volere una cosa, vero? E poi se ve la danno siete guariti, vero? La nonna ci voleva, siamo venuti ed è guarita. Dopo una pausa riprese: Anch'io sono malato di nervi. Ho i nervi per una vasca di pesci rossi e ho anche i nervi per un cane da caccia come quello lì. E additò un gran pointer sdraiato nel sole col muso sulle zampe. Oh, ma quello è Bear! Esclamai. È il caro vecchio Bear! E mi chinai a carezzarlo. Bear, buono! Bravo, non mi riconosci più? Bear alzò verso me due languidi occhi iniettati di sangue, ma non si mosse. Com'è triste. Forse è malato, dissi, toccandogli il muso per sentire se aveva il naso fresco. Avrà i nervi anche lui, disse Tioca. Certo avrà i nervi perché vorrà un osso. E il bimbo diede in una gaia risata squillante. In un attimo il gran cane si voltò e gli fu addosso, ringhiando e brontolando gli mordeva le vesti, gli copriva le spalle e il petto di bava sanguigna. Tioca cadde strillando, io mi precipitai sulla bestia infuriata, la afferrai al collo, alle orecchie, tentando trascinarla indietro. Il cane, ma con cupo ringhio e breve latrato rabbioso, si infuriava, sempre di più mordendo e strappando le vesti del piccolo Tioca, riverso e floscio sulla ghiaia come una bambola rotta. Mentre con la sinistra abbrancavo il collo della bestia, con la destra raccattai un ciotolo e con questo gli percossi la testa finché sanguinò. Allora, con un ruggito di tigre, l'animale si rivoltò e si scagliò su me. Sentii nel braccio il morso rovente delle sue zanne e lo percossi sul muso, negli occhi, col ciotolo già tutto insanguinato. Con un grido di dolore quasi umano, il cane lasciò la presa, si volse e si allontanò. Lo vidi trottar via per il viale, triste e terribile, con la coda bassa e la testa ferita, rosseggiante, al sole. Sollevai Tioca che singhiozzava, pallido come un lino, e corsi verso la casa. Non farti sentire, non farti sentire, supplicavo piangendo. La povera nonna ne morirà. E Tioca tentò di singhiozzar più piano. Piangendo tutte e due passammo dal cortile ed entrammo per la porta della servitù. Ci trovammo in cucina, davanti alle domestiche esterrefatte. Il cane! Singhiozzai, il cane ci ha morsicati. Credete che sia idrofobo? E gemendo posai sulla sedia il piccolo Tioca, deplorevole nelle sue vesti lacerate. Le donne e i due mugichi si torcevano le mani. Dio mio, cosa si fa col signor Conte a Kiev e la signora contessa ammalata? La cuoca aveva riempito d'acqua bollente una scodella e lavava le braccia di Tioca che urlava per il duplice dolore. Io sapevo che bisognava fare qualche cosa in fretta, ma che cosa? Ricordai d'aver letto La vita delle tre sorelle Bronte, una di quelle eroiche fanciulle era stata morsicata da un cane arrabbiato e da sé, senza disturbare la sorella ammalata di tisia, aveva arroventato un ferro e si era cauterizzata la ferita. Mettete nel fuoco un ferro! E additai con mano tremante l'attizzatoio. Sgomente le donne obbedirono e io snudai il mio braccio e le spalle lacerate del piccolo Tioca. Ma quando ebbi in mano il terribile arnese dalla punta arroventata, il coraggio mi mancò. Tioca ululava come una piccola bestiola folle e le donne erano tutte in ginocchio, piangendo e pregando. Ahimè, anch'io non sono un'eroina. Gettai lontano il ferro rovente, fasciammo le ferite, che una volta lavate avevano un'apparenza insignificante, innocua, e salimmo alla camera di mia madre. Ella riposava col piccolo viso affondato nei guanciali. Non osammo svegliarla e impaurirla. Lasciammo detto che eravamo stati chiamati da mio padre a Kiev e partimmo. Durante tutto il tragitto io guardai Tioca con profonda ansia e mi ascoltavo attentamente per sentire se avevo voglia di abbaiare, però non l'avevo. Continuai anche per tutto il viaggio a mostrare a Tioca dei bicchieri d'acqua, ma egli non ne provò alcun malessere, Dio neppure, e questo ci riconfortò. Appena a Kiev telegrafammo a Prilukov, siamo stati morsicati da cane arrabbiato. Egli rispose: Non vi spaventate, penso io. Difatti arrivò subito e ci condusse dal dottor Fritov, che ci fece per 21 giorni delle iniezioni di siero antirabico. Ci sentimmo molto male. Io chiedevo a Tioca ogni momento: Hai voglia di mordere? Ed egli invariabilmente mi rispondeva: Sì. E ciò mi rendeva assai infelice. 24. Non vidi più mia madre. Sparve con quella mite e dolce figura tutto ciò che di puro, di nobile, di tenero era ancora nella mia vita. Ero già sulla china della perdizione, sciolta dal ritegno di quella tenera mano che ancora con lieve stretta mi teneva il cuore. Presi la corsa verso la rovina. L'eredità fu spartita, la mia parte sperperata non so come. Tornai a Mosca e mi trovai sempre più alle prese con la necessità del denaro. Vivevo nel lusso, vestivo sfarzosamente, viaggiavo in qua e là e non avevo di mio che 4.000 rubli all'anno, che appena riscossi dileguavano, sparivano nella voragine dei miei debiti. Chiedevo denari a Prilukov ed egli me ne dava. Ma venne il giorno in cui, occorrendomi 5.000 rubli, egli disse: Non li ho. E soggiunse: a meno di rubarli. Per carità! Esclamai esterrefatta. Che cosa dite? Poi risi, comprendendo che scherzava. Prilukov disse: Te li farei dare da Kamarovsky. Io trasalii indignata. Da Kamarovsky? Mai! E poi mai! Da pochi giorni lo rivedevo, sempre pallido e desolato, immerso nel suo lutto. Egli e il suo adorabile bimbo, Grania, s'aggiravano sperduti e tristi nelle loro gramaglie. E venivano da me a piangere la diletta loro estinta. Sarebbe stato orribile, sarebbe stato indecente domandare a Kamarovsky dei denari. Non ho detto di domandargliene, fece Prilukov. E allora? Telefona e invitalo a pranzo per stasera. E poi? E poi vedremo. Con riluttanza obbedì. Kamarovsky accettò, grato e commosso, l'invito e si fece precedere da una grande cesta di rose. Prilukov, che s'aggirava ancora nel mio boudoir, ma che per il pranzo non voleva restare, annasò i fiori con un cinico riso. Des fleurs! Toujours des fleurs! Rien que des fleurs! Attendez un peu, nous en verrons bien d'autres. Fiori! Sempre fiori, nient'altro che fiori! Aspetta un po' e ne vedremo ben degli altri. Il campanello annunciò l'arrivo del mio invitato. Ma che cosa faccio? Che cosa gli dico? Domandai nervosamente a Prilukov. Non fare né dire nulla, non aprire alcuna lettera davanti a lui. Lettera? Chiesi sbigottita. Che lettera? Ti dico di non aprirne. E con questo comando enigmatico, Prilukov mi sospinse verso il salotto. Io entrai a salutare il mio ospite. Il conte Kamarovsky mi impietosiva e mi irritava un tempo. Il suo dolore per la perduta Emilia era certo sincero e profondo, ma quando io tentavo di consolarlo, vedevo nei suoi occhi, ancora inondati di pianto, dei baleni che non erano di solo dolore. Sentivo nella stretta della sua mano, calda e umidiccia, un fervore che non era tutto di gratitudine. E ne ero sdegnata per la mia povera amica. da così breve tempo sparita. Allora mi ritraevo, provando per lui un senso d'ira e di avversione. Però, quando lo vedevo allontanarsi, pallido nel suo lutto, conducendo per mano il suo malinconico bimbo, il cuore mi si stringeva e li richiamavo e cercavo di confortarli entrambi. Il piccino si avviticchiava a me con quasi morboso affetto, il padre mi teneva la mano e lasciava cadere su di essa le sue rapide, brucianti lacrime. Sì, Kamarowski mi ispirava a un tempo orrore e pietà. La conversazione fra noi vagava, sempre nei più eterei campi spirituali. Si aggirava intorno all'immortalità dell'anima, alla dimora degli spiriti, alle probabilità di una riunione oltreterrena. La volgare e necessaria prosa della vita era lontana e aliena da quei colloqui, accesi dalla più pura spiritualità. Mi pareva persino che mangiare in presenza di tanto lutto fosse spostato e indecoroso, ma poiché l'avevo invitato a pranzo. Un domestico prestatomi per l'occasione da Prilukov servì la zakuska e la vodka, e nella saletta da pranzo, gaia di fiori e di lampade color di rosa, non tardò a sbocciare, tra le ancor melanconiche parole, qualche timido sorriso. Avevamo appena bevuto il caffè quando venne annunciato Prilukov. Egli entrò rapidamente con una grossa busta sigillata in mano. Parve per un istante sorpreso di non trovarmi sola ed ebbe l'aria di voler dissimulare dietro alla schiena il plico. Indi, stringendosi nelle spalle con l'aria di rassegnarsi alla presenza dello straniero, mi consegnò la busta con un profondo inchino. «Che cos'è?» chiesi, sorpresa. Prilukov si strinse di nuovo nelle spalle e parlò piano, ma non tanto che l'altro non udisse. Mi avete fatto l'onore di dirmi stamattina che vi occorrevano 10.000 rubli. Sarò grato ed onorato se li vorrete accettare da me. E si chinò a baciarmi fervidamente la mano. Poi, con un rapido saluto al conte Kamarowski e un nuovo inchino a me, scusandosi di aver fretta, s'allontanò. Una vampera salita alla fronte già un po' calva del conte. Chi era costui? Disse con voce aspra. Io lo nominai e Kamarowski, con le ciglia aggrottate, soggiunse. Dovete essere in grande confidenza con lui se egli si permette di regalarvi 10.000 rubli. Ma no, balbettai, me li presta, li restituirò. Kamarowski si era alzato ed ora mi prendeva ambo le mani, stringendole al suo petto. Cattiva, cattiva, perché non le avete domandate a me? Non avete dunque fiducia? Perché accettarli da un estraneo? Quando io sono qui, io che vi amo tanto. Non so perché mi misi a piangere. Fu un po' per la commozione e assai per la vergogna. In un lampo egli m'aveva chiusa tra le sue braccia. Diletta, dolce, non piangere, io ti comprendo. Tu sei umiliata di accettare denari da quell'uomo che solleverà poi chissà quali pretese. Rendiglieli, te ne imploro, ed accettali da me. Io singhiozzavo sempre più, ero avvilita, mortificata. Giurami che glieli renderai. Continuava Kamarowski, stringendomi sempre più forte. Se tu mi rifiuti questa grazia, non mi vedrai mai più. Per amore della nostra Emilia, per amore del piccolo Grani, accettali da me e lascia che per sempre io ti sia amico. Ci volle del bello e del buono per consolarmi del mio proprio avvilimento. Egli scrisse subito uno scheck per 10.000 rubli e me lo mise tra le mani, facendomi chiudere a forza le dita, baciandomele e ringraziandomi. A mezzanotte partì. Io rimasi sola davanti allo scheck e alla busta sigillata. Ecco, avevo voluto 5.000 rubli e mi trovavo con 20.000. Povero buon Kamarowski e povero caro Prilukov. Però non vedo perché a questi li restituirei, dissi tra me e me. Ruppi i suggelli e aprii la busta. Guardai, impietrita dallo stupore. Poi risi. Sì, li restituirò. E richiusi la busta. Essa era piena di vecchi ritagli di giornale.